Festival sociale delle culture antifasciste. Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno. Bologna, Parco delle Caserne Rosse. Venerdì 29 maggio, ore 11, deposizione di corone di alloro, cerimonia a cura dell'Ampi e Appia Provinciale, ANEI e ANED, con l'associazione Combattenti e Reduci. Ore 12.30, inaugurazione delle mostre fotografiche. Oltre a quel muro, la resistenza nel lager di Bolzano 44-45. Rom e Sinti in Europa dal giorno della tragedia ai giorni della resistenza. Ore 12.45, la strage di Bologna. Alex Boschetti e Anna Ciammitti ricostruiscono gli eventi. Sarà presente Carlo Lucarelli. Ore 15, discussione sul libro La vita è lotta. Storia di un comunista emiliano di Ludovico Testa. Ore 16, oltre la linea del fronte, Ferruccio Trombetti, la missione alleata a Pomatox di Marco Minardi. Incontro con l'autore a cura e Ampi della sezione bolognese. Ore 17, presentazione del libro Ugo Bugni, un antifascista perseguitato e assassinato, scritto da Ermenegildo Bugni, edito dall'Ampi di Bologna. Ore 18, nessuno mai ci chiese. La vita del partigiano Armando Gasiani di Alessandro Delisi, presentazione e discussione del libro. Ore 19, presentazione del progetto degli archivi della resistenza, circolo Edoardo Bastignani tra ricerca e militanza antifascista. Ore 20, fumetti partigiani a cura di Emiliano Rabuiti e del centro fumetto Ondea Pazienza di Cremona. Ore 21, spettacolo di Burattini, Lutka, a cura del teatrino di carta di Anzola dell'Emilia. Ore 23, grande concerto, serata rap con I Porci, Bologna, La Cattiveria, Reggio Emilia, Gente Strana Post, Palermo, Cuba Cabal, Pesaro, Signor K, Checkpoint Charlie, Bergamo, Arena 051, Bologna. Ore 23.30, in poi, lungo, serata di musica elettronica, Lazzaretto autogestito,